Ho sempre letto con molto interesse i libri di Paul Tournier, uno psicologo, medico, conferenziere, nonché scrittore della Svizzera, vissuto il secolo scorso, il quale ha lasciato l'impronta del suo pensiero in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Paul Tournier aveva la rara dote dell'ascolto e della simpatia. Era diventato, senza averlo voluto, né previsto, come lui stesso disse, meno un confidente intimo degli altri. E questo perché cercava di comprendere non solo con il cervello, ma soprattutto con il cuore. Nei suoi libri raccoglie centinaia e centinaia di esperienze e riflessioni, emerse dalla sua relazione con i pazienti soggetti a varie malattie croniche inguaribili e che, spesse volte, ha guarito con la sua terapia psicologica spirituale. Io stesso, nel leggerne i libri, ho ricevuto un grande beneficio. Per non dire che parte della mia salute la devo ai suoi insegnamenti. E ne sono felice, perché in questo onoro l'obiettivo di Paul Tournier, il quale dichiarò: "Non ho scritto per scrivere, ma per curare gli uomini, per aiutarli a vivere meglio e superare, o accettare le loro sofferenze." Ma di tutto ciò che ho letto degli episodi della vita del medico svizzero, me ne è rimasto in mente uno, che mi accompagna coscientemente molto spesso, ma sono sicuro che incoscientemente è presente in me ad ogni istante. L'episodio si riferisce ad una improvvisa visita che Paul Tournier fece ad un paziente dopo aver ricevuto una chiamata urgente. Appena si avvicinò al malato, Paul si rese conto che ormai era di fronte a qualcuno che stava per lasciare per sempre questa terra. E mentre osservava il morente, si accorse che questo muoveva leggermente le labbra, con una certa agitazione. Avvicinatosi al paziente, Paul sentì che ripeteva sempre la stessa frase: "Non capisco, non capisco." Fu così che Paul Tournier diede una delle sue sagge risposte venutagli in cuore: "Da parte di Dio, si ricordi che nella vita l'importante non è capire, ma accettare." Ad un tratto il viso dell'uomo si illuminò e, dopo aver detto grazie, morì in serenità. Questo episodio mi ha confermato maggiormente che il più grande dilemma per un essere pensante come l'uomo è quello di capire o dare una spiegazione agli eventi della vita e a tutto ciò che lo circonda, e che per trovare la serenità o per vivere bene non è necessario comprendere ogni cosa, ma accettare, cioè adeguarsi positivamente a ciò che ci succede. Se desidero fare una passeggiata ma piove, non serve a nulla arrabbiarsi o chiedersi perché sia una giornata piovosa. Non è intelligente. Sarà invece sufficiente che io apra l'ombrello e cammini sotto la pioggia. Non ho risolto il problema della pioggia, ma adeguandomi alla circostanza, non mi sono bagnato e non ne ho portate le conseguenze. Questo esempio, pur banale, se viene applicato a situazioni più complicate e drammatiche della vita, può portare benefici immensi. Una cosa, però, bisogna specificarla. Se non si impara ad accettare, fin da piccoli, la vita come si presenta, molto difficilmente si sarà capace di farlo quando si è adulti, anche perché spesso i presupposti sui quali ci relazioniamo con il mondo esterno si formano in tenera età. Se una bambina ha un padre violento, maleducato, il quale casomai picchia del continuo sua moglie, da adulta non sarà certamente costretta a pensare che suo marito sia un violento o che la picchierà, ma il presupposto di questa eventuale probabilità non sparirà certo dal suo intimo. E l'assurdo dell'assurdo è la teoria sostenuta dagli psicologi, che in qualche maniera inconscia si cerca di ricreare nel matrimonio la situazione già precedentemente vissuta in famiglia. Non è certamente sempre così, ma più volte ho assistito a divorzi nei quali uno dei partner ha a sua volta avuto dei genitori divorziati. Accettare positivamente le situazioni della vita e trarne un beneficio non è solo doveroso, ma è anche un sintomo di salute psichica. In effetti, le persone che non sono psicologicamente normali non sanno affrontare le contrarietà. Vedono tutto difficile e contrario, considerano ogni difficoltà un nemico alla loro felicità. Un giorno d'estate ero andato sul balcone perché c'era un bel venticello. Poco dopo vedo una bambina nel balcone di fianco, che esce di casa, tutta intenta a giocare con un tavolino, dei piatti e delle posate. Comprendo che vuole apparecchiare. Dopo aver disposto il tavolino, prende la tovaglia, cercando di distenderla sulla tavola, ma avendola messa contro vento, la tovaglia non si appoggiava sulla tavola. Prova una volta, prova due volte, ma la tovaglia andava dove non voleva la bambina, la quale era decisa nel voler mettere la tovaglia sulla tavola. Infine, dopo vari tentativi, senza nessun gesto di stizza, la vidi voltarsi in modo che la tovaglia, spinta dal vento, si appoggi sulla tavola. Quella bambina aveva dimostrato il proprio buono stato di salute mentale proprio nel 1. Sapersi adattare alle circostanze negative. Oggi era la tovaglia a non andare come voleva lei. Domani saranno cose molto più gravi. Ma il presupposto dell'accettazione era stato seminato. Vi sono persone credenti e non, perché non fa differenza, che hanno una vita estenuante, sempre in difficoltà, che vivono un continuo controcorrente, perché non accettano certe situazioni nella vita e non si lasciano modellare dal Dio delle circostanze. C. È chi non accetta di invecchiare, perché invecchiare vuol dire anche adattarsi a situazioni nuove. Prima potevi essere agile e forte. Ora, con passare degli anni, ti rendi conto che le tue forze non sono più le stesse. C. È chi non accetta il proprio corpo, come quella ragazza che si era rapata per non voler sembrare una femmina. C. È chi non accetta il tradimento di un amico e non si fida più di nessuno. C. È chi non accetta i propri genitori con i loro difetti, e per questo il suo rapporto con loro è un continuo conflitto. C. È chi non accetta una delusione d'amore o la perdita della verginità e non riesce a intrecciare una nuova relazione amorosa. E chi non accetta una sventura e vede tutta la vita al negativo. Gli esempi potrebbero dilungarsi all'infinito, ma tutti hanno in comune una cosa. La loro esistenza è subita e condizionata dalle circostanze, anziché D-O-M-I-N-A-R-L-E. Abramo Lincoln, quando era giovane, si candidò per il governo del suo stato, l'Illinois, ma fu sconfitto. Si mise in affari, fallì e impiegò 17 anni per pagare i debiti. Si fidanzò con una bellissima ragazza, che morì. Rientrò in politica, si candidò per il Congresso degli Stati Uniti e di nuovo fu sconfitto. Si offrì per un posto al Magistero dell'Agricoltura e non lo ottenne. Si candidò al Senato degli Stati Uniti e fu sconfitto. Nel 1856 si candidò alle elezioni per la vicepresidenza e fu sconfitto. Nella lotta per la liberazione degli schiavi, nel 1858, fu sconfitto. Che dire? Se c'era un uomo al quale fosse lecito gettare la spugna, un uomo che poteva a ragione subire le circostanze avverse, era proprio Abramo Lincoln. E, come se ciò non bastasse, Abramo ebbe una delle peggiori mogli che un presidente d'America avesse avuto, eppure accettò positivamente ogni avversità, al punto che alcuni storici hanno concluso che proprio quelle circostanze avverse abbiano fatto di lui il presidente di maggior successo in assoluto. Questo capovolge l'opinione comune, che dietro ad un grande uomo ci è sempre una grande donna, oppure che si sarebbero potute fare grandi cose avendo un partner diverso. Le circostanze avverse ci sono per tutti, ma proprio per tutti. E il segreto per essere vittoriosi non consiste nell'avere la strada appianata, ma nell'accettare le situazioni e adattarvisi. Penso a un ragazzo di Melbourne, in Australia, il quale è nato senza braccia e senza gambe, ma riesce a fare praticamente tutto, persino a radersi la barba. Come se ciò non bastasse, tiene con passione conferenze per incoraggiare i giovani a servire Cristo. Cosa può fare l'accettazione? Come cristiano, mi è molto difficile trattare un argomento senza metterlo in relazione alla mia fede e alla parola di Dio. Così ho dato uno sguardo per vedere cosa dice la Bibbia in relazione al tema dell'accettazione. Il primo aspetto che mi è balzato agli occhi è quello rivolto proprio a coloro che sanno accettare la vita per quello che è. Chi ha il cuore saggio accetta i comandamenti, ma chi ha le labbra stolte va in rovina. Proverbi 10:8. Forse sfugge alla maggioranza delle persone, ma l'esistenza umana è soggetta ad una infinita varietà di comandamenti, la mancata accettazione dei quali procurerà delle conseguenze negative e dolorose. È fuori discussione che il comandamento sia una imposizione, come sono una imposizione le circostanze della vita. Così, se è saggio accettare il codice stradale o le regole della società, è pure saggio accettare i propri limiti umani, i difetti dei propri genitori e dei fratelli in fede, come è saggio accettare in positivo ciò che non va, secondo il nostro più Nuovo Testamento o di vista. Non so se tutti sono come me, spero di no. Ma devo confessare che quando una situazione non va come dovrebbe andare secondo il mio punto di vista, la mia reazione immediata è di ribellione, che viene poi placata o controllata dalla consapevolezza che niente capita a caso e che Dio è padrone di fare quanto ritiene opportuno. Che due giovani missionari zelanti per il regno di Dio muoiano falciati da una macchina e un ateo bestemmiatore. Viva quasi 100 anni. Non sembra una cosa logica alla mia mente e, forse non lo è. Ma, alla fine, accetto che i miei pensieri non siano i pensieri di Dio, accetto che le mie vie non siano le vie di Dio, accetto che la mia morale non è la morale di Dio, accetto che Dio è sovrano di fare quello che vuole, accetto che poteva farmi nascere malato, infermo, poteva rendermi disperatamente. Due povero, poteva darmi una esistenza privata di tante benedizioni di cui godo ora. Poteva fare tutto questo, e come quel ragazzo dell'Australia poteva farmi nascere senza braccia e senza gambe, oppure nascere cieco e sordo, come tanti altri. Proprio per questo, accetto maggiormente con tanta riconoscenza la salute e la malattia, l'intelligenza e i miei limiti, il benessere e l'indigenza, e ogni altro aspetto nella vita. Come posso sapere di avere accettato tutto questo? Dal semplice fatto che vivo con una profonda e divina gratitudine nel cuore. Gratitudine che si esprime con una vita vissuta secondo il volere di Cristo. Infatti, il cristianesimo non è altro che una risposta d'amore all'amore di Dio in Cristo. E tu vivi questa gratitudine. Aprile 2011, Ellero 3.